la sera giunge, s'accende un paese, i giovani si ritrovano sotto il lume arancese. E rise si confondono col ritmo di anote. Ogni veste è una storia che nasce i nostri bassi. Canta a volte, pari un bar, ad oggi di paesi, a vita valla i cuori diventano accesi. Canta a volte a traizioni un cinema, insieme a gioventù, la musica cambierà. Canta a volte, pari un bar, ad oggi di paesi, a vita valla i cuori diventano accesi. Canta a volte a traizioni un cinema, insieme a gioventù, la musica cambierà. Le chitarre si svegliano sopra i vetri antiche, le vecchie canzoni ci tenono unite e so magnifiche. La gioventù colorie porta vita nuova, non i veste di paese, spirito donna fa prova. Canta forte, fa rimba, ad oggi in li paesi, a vita valla, i cori ventano accesi. Canta forte, traizione non si ne va, insieme a gioventù, la musica camperà. Canta a volte, pari un bar, ad oggi li paesi, a vita valla, i cuori diventano accesi. Canta a volte, traizione non si ne va, insieme a gioventù, la musica camperà. Sotto ai steli l'isola, tutti sempre speratemo, fra bari e tamburini e ciocchi si celebremo. Il tempo passa ma gioia non finisce mai, in ogni sogno campa ciocchi giera e ciocchi sera. Canta forte, fa rumba, ad oggi di paesi, a vita valla i cuori diventano accesi. Canta forte, traizione un cinema, la musica camperà. Canta a volte, canta a volte, canta a volte, fari un bar, ad oggi li paesi, a vita valla i cuori diventano accesi. Canta volta dai giorni un cinema, insieme a gioventù, a musica romperà.